Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Secondo i dati del monitoraggio conclusosi il 31 gennaio 2013 nella classifica degli atenei pubblici italiani, il sito web dell'Università di Milano Bicocca è al primo posto, è il migliore, rispettando il 95,24%, grandissima precisione, dei requisiti richiesti. Si tratta di una classifica, questa di cui stiamo parlando, che viene periodicamente aggiornata all'interno del progetto Magellano, un progetto promosso dal Consiglio dei Ministri e dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, al cui interno si trova un progetto ulteriore che si chiama Bussola della Trasparenza, che rende proprio possibile per gli utenti, per tutti noi, monitorare in tempo reale il rispetto dei requisiti che sono richiesti a tutti i siti web istituzionali. Tra l'altro, questo della trasparenza della pubblica amministrazione è proprio uno dei tormentoni degli ultimi anni, e direi anche per ottime ragioni. Allora vediamo di capire cosa c'è da imparare dall'Università della Bicocca in fatto di trasparenza sul web, e lo facciamo con Candeloro Bellantoni, direttore generale dell'Università di Milano Bicocca. Buonasera Bellantoni. Buonasera dottore, buonasera. Allora intanto complimenti, sì. Siete stati molto bravi. Ci aiuti a capire subito, le chiedo, che tipo di criteri, di voci prende in considerazione questo studio, così insomma che i nostri ascoltatori capiscono bene di cosa stiamo parlando. Ma dunque, le voci sono principalmente quelle che vengono, diciamo, suggerite dall'applicazione della legge 150/2009, che è la cosiddetta legge Brunetta, e riguarda un po' tutta la struttura dell'amministrazione, il suo piano delle performance, le retribuzioni dei dirigenti, degli organi politici, l'organigramma, l'elenco delle caselle di posta elettronica e poi tutta una serie di il tasso di assenza di maggiore dalle elezioni e poi tutta l'indicazione dei servizi web resi disponibili. Ecco, comunque complessivamente sono 42 gli indicatori che vengono presi in considerazione. Il Ministero valuta se uno li rispetta oppure no, e se non li rispetta gli dà anche, credo, qualche suggerimento. Questo sì. È un po' anche lo scopo del progetto. Ecco, senta, voi siete arrivati primi. Uno, se scorre la classifica, almeno io sono rimasto abbastanza sorpreso. Intanto perché, diciamo, della locomotiva d'Italia, della Lombardia, c'è una sola università, la più giovane di tutte, o comunque una delle più giovani, cioè Milano Bicocca in cima, e poi non se ne trovano più per un po' di università lombarde. Ma in generale non sono moltissime le università del nord, e spesso non sono gli atenei più rinomati o quelli comunque di più lunga tradizione quelli che hanno ottenuto i risultati migliori. Faccio qualche esempio: al secondo posto troviamo Sassari, poi l'Università Politecnica delle Marche, poi l'Università degli Studi del Salento, L'Aquila, Ferrara; al sesto troviamo Torino, poi Roma; poco dopo troviamo Palermo, Bari, Parma e così via. Troviamo sorprendente, con livelli di rispetto delle normative praticamente 0, 2%, 3%, le università di Bolzano e di Trento. Sembra quasi una classifica un po' al contrario. Intanto le chiedo qual è il vostro segreto, cos'è che vi ha portato a essere così precisi e diligenti sul sito, ma poi cosa ne pensa di questa classifica, anche un po' strana e sorprendente per certi versi. Guardi, io le dico, per quello che ci riguarda, compilare, far sì che il nostro sito rispondesse a questi requisiti è un obbligo di legge, e quello di essere aderenti il più possibile alla legge è una nostra regola da sempre. Poi, come mai accada questo? Probabilmente si può spiegare col fatto che università più giovani e più piccole hanno minore organico e quindi hanno maggiore necessità di interagire con il web, e avere quindi un sito efficiente significa interagire meglio con i propri utenti. Da questo punto di vista noi abbiamo dato molta attenzione sempre al web proprio per questo motivo, per rendere i servizi disponibili il più possibile durante le ore della giornata e per interagire al meglio con i nostri utenti. Potremmo riassumere con lo slogan di necessità virtù, cioè voi avete puntato sul web perché era il vostro canale, diciamo, il modo più economico per soddisfare i bisogni di comunicazione. Assolutamente sì, lei consideri che per quanto noi siamo avanti, abbastanza ben messi per quanto riguarda le diverse università, siamo al primo posto tra l'altro in Italia anche sulla diffusione della verbalizzazione digitale degli esami, siamo circa al 95% di esami universitari verbalizzati online e con firma digitale. Peraltro noi il nostro sito, devo dire, lo gestiamo da sempre con personale interno, e questo ha dato anche una continuità di azione, e credo che questo sia anche alla base del fatto che noi siamo riusciti via via a scalare, diciamo, gli adempimenti di questo della legge. quindi abbiamo del personale interno che ormai da anni si occupa del sito. E avete poi, per esempio, uno sportello telefonico? Questo mi sembra anche un suggerimento interessante. Sì, noi abbiamo uno sportello telefonico che stiamo utilizzando, gestendo il sito in proprio, che stiamo utilizzando anche per migliorare la qualità del nostro sito, ecco, perché dai nostri utenti sì, otteniamo delle informazioni. Cioè, uno sportello telefonico, diciamo, che dà informazioni agli utenti. La cosa intelligente che fate è utilizzare le domande, le richieste di informazioni che vi arrivano lì, per migliorare il sito, ecco. Utilizziamo altri due canali per migliorare il sito, devo dirle. Noi siamo stati fra le prime università ad aprire anche una pagina su Facebook, che ormai conta 22.000 utenti, e una pagina su Twitter, che ha circa 3.500 utenti. Ma ci fate qualcosa, diciamo, di servizio con questi canali? Sì, assolutamente, cerchiamo di, diciamo, interagire il prima possibile con i nostri utenti, rilevando anche dalle loro comunicazioni, quelle che si scambiano fra di loro, quali sono gli eventuali disservizi prima ancora che vengano levati a segnalazione, e da qui vediamo anche quali sono le loro necessità e sulla base di questo aggiustiamo il tiro per migliorare il nostro sito. Senta, un famosissimo politico diceva che a pensare male quasi sempre ci si azzecca, quindi le chiedo comunque una cosa. Lei è sicuro che, diciamo, dietro la difficoltà di tanti istituti, perché qui in fondo la parola chiave è trasparenza, non è? Sì. Ecco, non ci sia qualche difficoltà anche a pubblicare alcuni dati, magari qualche imbarazzo, che ne so, su qualche stipendio, su qualche... Penso non lo so. No, penso che non sia quello, anche perché, guardi, se lei considera non pubblicare degli stipendi, in fin dei conti incide per un 42esimo. E invece molti atenei, effettivamente anche molto blasonati, sono praticamente adempiono a metà degli adempimenti. Credo che sia proprio un problema forse di poca attenzione o poca fiducia nei confronti del mezzo comunicativo. Penso sia più questo. Grazie direttore Bellantoni. Grazie, buonasera dottore, grazie. Ci fermiamo, anche per questa sera abbiamo concluso. Appuntamento a domani.